Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 745 e parleremo di guerra ai selvatici e di orsi marsicani, di proposte politiche animaliste e di post-allevamenti. La ricetta della settimana è come al solito inventata da Gabriele Palloni. La colonna sonora è a cura di Gianluca Masala. La sintesi che ne ha fatto il deputato verde Angelo Bonelli è più che esplicita. Che vergogna, ha detto. Con il decreto agricoltura approvato si usa l'esercito per abbattere la fauna selvatica da contenere, cinghiali, lupi e altro. Si useranno i militari per attuare i piani di contenimento della fauna selvatica delle regioni, dopo che il parere scientifico dell'ISPRA è stato neutralizzato. Una vera e propria follia. Nel mirino del deputato verde il decreto agricoltura, che intende disciplinare una serie di questioni che vanno dal divieto di installare pannelli fotovoltaici su terreni agricoli alla lotta contro la peste suina, fino a misure definite urgenti per la pesca, l'acquacoltura, le imprese considerate di interesse strategico nazionale. Un decreto dalle molte facce, dunque. Quelle più pericolose per la vita animale prendono l'abbrivio dalla diffusione della peste suina, che si è innescata e propagata negli allevamenti, ma che viene contrastata con politiche di abbattimento che riguardano anche gli animali selvatici, senza però toccare, questa è la critica delle associazioni animaliste, il nodo cruciale, gli allevamenti stessi, appunto. Un tema questo emerso in tutta la sua drammaticità nel settembre 2023, quando i tecnici sanitari, accompagnati dalle forze di polizia, fecero irruzione nel rifugio Cuori Liberi di Sairano, in provincia di Pavia, per uccidere i maiali, tutti sani, che vi erano ospiti. Il decreto agricoltura dunque prevede, questa la dicitura ufficiale, misure di contrasto alla peste suina africana come il potenziamento dell'utilizzo delle forze armate e l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili nell'attività di contrasto al fenomeno. Un arruolamento quindi in piena regola. E anche una dichiarazione di guerra, i cui modi di attuazione non sono ancora chiari. La norma, inserita nel decreto agricoltura in particolare, prevede la messa in campo di 177 unità del personale delle forze armate autorizzate a svolgere il servizio per un periodo non superiore a 12 mesi, rinnovabile per una sola volta. Il contingente, leggiamo ancora dalle norme diffuse dal governo Meloni, è composto da un numero di unità sufficienti a dare tempestiva attuazione ai piani e alle misure previste. Gli animalisti, di fronte a questo provvedimento, parlano di una svolta verso la militarizzazione dei boschi e lo fanno con qualche ragione. Come si legge sul sito del Sole 24 Ore, i 177 militari avranno anche compiti di pubblica sicurezza. Il decreto prevede infatti che al personale delle forze armate, non appartenente all'arma dei carabinieri, saranno attribuite tutte le funzioni di agenti di pubblica sicurezza e potranno identificare le persone per prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività. Marco Reggio, attivista e ricercatore nel campo dell'antispecismo, ha commentato questa notizia dicendo che quello che l'industria zootecnica e il Ministero stanno imponendo con una determinazione crescente è un percorso sconsiderato in direzione del collasso ambientale, dello sterminio di maiali e di cinghiali per il profitto di pochi. Un percorso che da una parte ribadisce come gli esseri senzienti siano, per il capitalismo, meri oggetti, e come tali imprigionabili e in caso di malattia sacrificabili anche in massa. Dall'altra si tratta di una visione del mondo che necessita di un nemico esterno cui addossare le colpe del modello produttivo occidentale, permettendo al tempo stesso alle frazioni più deteriori della società umana di sfogare i peggiori impulsi. For my family, we're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Little rock and falls, and they juice me, seduce me. Dress me up in stitsy. Confused by different memories, details of Asian remembrances. Become a venom, it's my brain thinks bomb like. So I listen, he's a calm type. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Restiamo in un ambito politico. Come sempre, anche quest'anno la questione animale, ma più in generale la questione terra, e cioè l'emergenza ecologica e climatica, ma potremmo dire esistenziale, che ci riguarda, non sarà al centro dell'attenzione politica, nemmeno in tempo di elezioni. E tuttavia le associazioni animaliste si sforzano di portare i propri temi in primo piano, con un'agenda di proposte sulle quali misurare la disponibilità e le volontà dei candidati. Di che si tratta? Prendiamo come esempio il decalogo che il tavolo Animali Ambiente sta sottoponendo ai candidati alle prossime elezioni regionali del Piemonte. Parliamo di un tavolo che include associazioni come EMPA, LAV, Lega Ambiente, LIDA, LIPU, OIPA, PAN, Pro Natura Torino e SOS Gaia. Queste associazioni hanno elaborato un decalogo. Vediamo quali sono i 10 punti sottoposti all'attenzione dei candidati. 1. Divieto di tenere cani a catena senza eccezioni. 2. Più risorse per la lotta al randagismo e per la sterilizzazione dei gatti. 3. Transizione verso un'alimentazione vegetale con almeno un giorno di dieta vegetale nelle mense pubbliche. 4. Finanziamento annuale dei centri recupero animali selvatici e dei santuari gestiti da associazioni. 5. Abolizione della caccia e attuazione di piani di contenimento incruenti, anche con esperimenti pilota per le specie considerate invasive, ed esclusione dei sistemi cruenti. 6. Finanziamento annuale della legge sulla ricerca di metodi alternativi alla sperimentazione animale. 7. Corsi di formazione e approfondimento per responsabili dell'applicazione della legge 189 contro il maltrattamento animale e per la polizia locale sulle norme a tutela degli animali. 8. Maggior tutela degli animali in sagre, fiere e pali. 9. Divieto dei botti e fuochi d'artificio. 10. Messa in sicurezza dei canali artificiali. Come si vede, si tratta di un insieme di proposte tutt'altro che massimaliste, ma normalmente assenti dai programmi dei partiti politici. Sono provvedimenti che, una volta attuate, comunque cambierebbero la condizione degli animali nella regione Piemonte, consentendo di compiere importanti passi avanti sul piano della tutela e della considerazione della vita animale come degna di considerazione e di rispetto. È possibile che alcuni candidati accettino per intero il decalogo, ma al momento sembra improbabile, onestamente, che la maggioranza di governo, quale che sia, che avrà l'incarico di governare il Piemonte, si prenda l'impegno di realizzare questi 10 punti. E tuttavia vale la pena provarci e lottare. Un orizzonte politico anche molto concreto. È possibile definirlo. Seguiremo da vicino le prossime elezioni locali ed europee dell'8 e 9 giugno. side for me in the sun, laying down to soak it all in before we had to run. I was always 10 feet behind you from the start, didn't know you were gone till we were in the car. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you. And I would always be light years away from you. Light years away from you. I thought I saw your mother last weekend in the park. It could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows alone. You could have been right there next to me, and I'd have never known. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you. And I would always be light years away from you. Light years away from you. Light years away from you. Light years away from you. Da molto tempo ormai siamo obbligati a parlare di orsi, soprattutto per la campagna contro questi animali in corso nella provincia autonoma di Trento. Nel trattare questo argomento è accaduto più volte che abbiamo paragonato la foga politica anti-ursina in Trentino con il clima decisamente più disteso che si respira nel centro Italia, terreno d'elezione dell'orso marsicano, parente degli orsi del nord Italia, originari della Slovenia. E tuttavia occorre registrare il fatto che, pur in assenza di una guerra ideologica e anche pratica del tipo di quella attuata sulle Alpi, anche gli orsi marsicani sono in pericolo. Lo segnala il WWF, promotore nei giorni scorsi di una intensa campagna in favore dell'orso marsicano, per la sua salvezza. Sì, perché la specie è in pericolo. Gli orsi in libertà sono così pochi che se ne teme l'estinzione. Come ha scritto il WWF Italia nel lanciare la sua campagna, nel cuore dell'Appennino centrale c'è una specie straordinaria che rischia di scomparire per sempre. È l'orso bruno marsicano, sottospecie unica al mondo e presente con una popolazione di soli 50-60 individui, minacciati da bracconaggio, avvelenamenti, investimenti stradali e frammentazione dell'habitat. In media, dice ancora il WWF, ogni anno muoiono 2 orsi in Appennino, un numero terribilmente elevato per una popolazione così piccola, endemica di un territorio che potenzialmente potrebbe ospitarne più di 200. Il WWF ricorda poi le caratteristiche dell'orso marsicano, animale poco aggressivo e abituato a una dieta alimentare basata per l'80% sul consumo di vegetali. L'isolamento nell'Appennino centrale, che dura da circa 2000 anni, e l'elevata mortalità dovute a cause di origine umana sono alla base, dice il WWF, della bassa diversità genetica e dell'elevato rischio di estinzione di questa popolazione. Gli orsi bruni marsicani, che vivono nelle aree montuose, comprese fra Abruzzo, Lazio e Molise, incontrano oggi molti pericoli nella loro vita quotidiana, dovute soprattutto alla presenza diffusa di attività umane e di infrastrutture, in primo luogo le strade e le autostrade, le quali, oltre a rappresentare un rischio concreto per la sopravvivenza degli animali, frammentano l'habitat e rendono difficoltosi i naturali spostamenti, diminuendo così la possibilità che la popolazione degli orsi si espanda in nuove aree. Insomma, l'Appennino è stato un habitat storicamente favorevole a questa subspecie di orso bruno, ma le modifiche che il territorio ha subito negli ultimi decenni hanno impresso cambiamenti così forti da compromettere le reali condizioni di vita degli orsi. Ogni volta che si sono progettate strade, infrastrutture, ogni volta che si sono fatti interventi di modifica del territorio, non si è insomma pensato agli animali selvatici, col risultato di causare danni probabilmente irreparabili al loro habitat. Per dare all'orso bruno marsicano concrete possibilità di sopravvivere in futuro, è necessario innanzitutto diminuire drasticamente la mortalità di origine umana, così dice il WWF, e migliorare la connettività ambientale, lavorando poi per favorire l'accettazione sociale della presenza degli orsi da parte delle comunità locali. Secondo il WWF, la convivenza pacifica fra gli umani e gli orsi è uno degli obiettivi primari e per raggiungerlo occorre lavorare su più fronti, includendo anche la prevenzione dei comportamenti cosiddetti confidenti, cioè una relazione troppo stretta fra umani e orsi, perché questi comportamenti mettono a rischio la sopravvivenza degli animali. Più in generale, questo è il senso del lavoro che occorre fare con tutti gli animali selvatici e quindi anche il nostro appello alle istituzioni e alle popolazioni è verso una convivenza che è possibile e deve essere ricercata nell'interesse di tutti, animali, umani e non. Siamo persuasi che questa strada debba essere un impegno politico e civile generale. Come on down to the river of qualche settimana addietro abbiamo parlato della copertina dedicata dal settimanale internazionale alla storia di una famiglia svizzera, titolare di un allevamento, che ha deciso a un certo punto di trasformare la propria attività in una fattoria dedita a produzioni esclusivamente vegetali. Dallo sfruttamento degli animali al vegan, dunque. Una scelta che è stata sofferta in quella famiglia dagli appartenenti alla generazione precedente ai giovani gestori di oggi, ma che è stata sostenuta da un contesto sociale, culturale e anche economico ricettivo, visto che la nuova fattoria riesce comunque a sostenersi. Un caso analogo in Italia si è guadagnato l'attenzione del Corriere della Sera, che ha dedicato una pagina alla storia di Giulio Apollonio, che in Puglia, a Cutrofiano, ha un allevamento, se ancora vogliamo chiamarlo così, di 6.000 galline, nessuna delle quali viene uccisa. La fattoria si estende su una superficie di 4 ettari a prato e le galline sono mantenute all'unico scopo di raccogliere le loro uova, in un numero che varia dalle 300 uova al giorno fino a 1.500. Come ha spiegato Giulio Apollonio, il titolare di questo singolare allevamento, all'intervistatore Stefano Lorenzetto, la scelta di tenere le galline senza macellarle è stata sì etica, ma anche economica. Al pascolo, ha detto Apollonio al giornalista, le galline ricominciano a deporre uova di qualità, che riesco a vendere anche a Parigi, Madrid, Bruxelles e nella Repubblica Ceca. Qui in Puglia le do a Borgo Ignazia, una lussuosa masseria, dove dal 13 al 15 giugno le uova di Apollonio saranno servite a Joe Biden e agli altri capi di Stato e di Governo che saranno a Borgo Ignazia, ospite della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per il vertice G7 che si tiene quest'anno in Italia. Dunque, alla tavola dei potenti della terra, che sono alle prese in questo periodo storico con guerre e tragedie umanitarie spaventose, ci saranno uova ottenute con metodi non cruenti. Un curioso contrasto. Nell'intervista Giulio spiega di aver tenuto in passato un allevamento tradizionale di bovini e che sua moglie, Mayra, è figlia di una coppia che era titolare di un mattatoio. Insomma, la vita animale nelle rispettive famiglie aveva uno statuto decisamente basso. La svolta, quindi, è stata davvero radicale. Insomma, anche l'esperienza di Giulio Apollonio in Puglia ci dice che un altro allevamento, anzi, un post-allevamento, è possibile. Questa settimana abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni di proporci una ricetta rigorosamente non violenta ispirandosi a una delle notizie della puntata. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore, fra gli altri, del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, un testo che è una fucina di idee per la nostra tavola, per i nostri pranzi, per le nostre cene, un libro che vi consigliamo vivamente. Sentiamo che cosa ha pensato Gabriele per questa puntata. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. All'appello in soccorso dell'orso marsicano rispondiamo con una ricetta tipica della tradizione, nata cruelty free fin dalle sue origini della cucina povera. lasagne e fagioli. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di semola di grano duro, 400 g di fagioli borlotti già cotti, 500 g di polpa di pomodoro, uno scalogno, una costa di sedano, foglie di alloro, peperoncino, olio extravergine di oliva e sale. Iniziate preparando la pasta. Disponete la farina a fontana e versate al centro 200 ml di acqua a temperatura ambiente e un pizzico di sale. Impastate per una decina di minuti fino ad ottenere una palla liscia e compatta. Stendete la pasta in una sfoglia di circa 2 mm di spessore. Infarinate bene su entrambi i lati e lasciate riposare per mezz'ora. Nel frattempo preparate il condimento. Pulite e tritate lo scalogno ed il sedano e fate rosolare in un tegame con 2 cucchiai di olio extravergine. Aggiungete il peperoncino e poco dopo la polpa di pomodoro. Portate ad ebollizione, aggiustate di sale e fate ritirare a fuoco lento per una ventina di minuti. Unite i fagioli già lessati e lasciate cuocere ancora 30 minuti, sempre a fiamma bassa. Recuperate la pasta e con un coltello ricavate delle strisce di 3 cm di larghezza, quindi tagliando in orizzontale ottenete dei rombi. Cuocete in acqua bollente salata con qualche foglia di alloro per 2 minuti. Scolate e versate nel tegame con il condimento. Fate cuocere qualche minuto prima di servire. He was walking along the road. I asked him, "Where are you going?" And this he told me. "Well, I'm going down to Yasker's farm. Gonna join in a rock and roll band. Gonna get back to the land and set my soul free. We are stardust, golden, and we've got to get ourselves back to the garden." "Then can I walk beside you? I have come here. We are stardust, we are golden, and we've got to get ourselves back to the garden. By the time we got to Woodstock, we were half a million strong, and everywhere was a song and a celebration." Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.